Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Ci accolgono le note del Vessillo Lombardo, un inno popolare patriottico lombardo di Antonio Bazzini e Antonio Buccellini del 1848 circa, che ci accompagnerà in questa puntata dedicata ai libri sull'unità d'Italia che ricorderemo e celebreremo il 17 di marzo. Cominciamo dai protagonisti di quegli anni, non i politici, non i patrioti, non i condottieri, ma quelli che hanno fatto il clima culturale che ha portato poi all'unità. E vi propongo perciò il libro Vite per l'Unità, artisti e scrittori del Risorgimento Civile, un libro curato da Beatrice Alfonsetti e Silvia Tatti, pubblicato da Donzelli, 196 pagine, 17 euro. Qua troviamo 12 protagonisti, tutti scelti per aver tessuto, persino senza volerlo, aggiunge il libro, come accade a Leopardi, a Donizetti e a Verdi, i fili invisibili di una stessa trama, fare l'Italia che non c'è. E quindi troviamo in questo libro i ritratti di Foscolo, Manzoni, Pellico, Donizetti, Leopardi, di Cattaneo, Gustavo Modena, Mazzini, Cristina di Belgioioso, La Malibran, Giuseppe Verdi, Ippolito Nievo. Tutti scelti perché ciascuno in qualche modo è un'icona: Foscolo della patria, Manzoni degli oppressi e degli innocenti, Gustavo Modena l'attore patriota e così via. A proposito di Verdi, sentite come Cavour gli offrì di candidarsi al primo Parlamento nazionale il 10 gennaio del 1861. La sua presenza contribuirà al decoro del Parlamento dentro e fuori d'Italia. Essa darà credito al gran partito nazionale che vuole costituire la nazione sulle solide basi della libertà e dell'ordine. Ne imporrà ai nostri immaginosi colleghi della parte meridionale d'Italia, suscettibili di subire l'influenza del genio artistico più assai di noi, abitatori della fredda Valle del Po. E a proposito di Cavour, lo abbiamo intercettato il Conte per una delle nostre interviste impossibili e gli dà voce quest'oggi il giornalista Giorgio Dell'Arti, che sta pubblicando sulla Stampa settimanalmente il sabato un'auto-intervista che verrà poi pubblicata in volume. Ne daremo notizia quando il libro uscirà. Buongiorno al Conte di Cavour. Buongiorno, buongiorno. Signor Conte, come facciamo questa intervista? In italiano, in francese? Perché sa, le male lingue ancora dicono che lei non parlasse neanche l'italiano. Ma io ho studiato l'italiano a scuola e andavo malissimo, era la materia nella quale avevo i risultati peggiori. E poi ho imparato a parlare veramente l'italiano quando sono stato eletto deputato, perché nel Parlamento, nel nostro Parlamento subalpino, era proibito parlare francese e gli unici che potevano parlare in francese erano quelli della Savoia. Solo allora con loro discutevo volentieri, perché allora mi era concesso di parlare in francese, che era la mia lingua preferita. Però poi l'italiano l'ho imparato abbastanza bene. In Parlamento lei sbarcò tardi per i suoi tempi, ormai era una persona anziana. Beh, quando sono entrato in Parlamento avevo 38 anni, diciamo ero un uomo maturo, però anche il Parlamento è arrivato tardi a Torino, perché fino al 1848 a Torino il Parlamento non ce l'abbiamo avuto, e quindi sono entrato in Parlamento quando il Parlamento ha cominciato ad esistere. Ho perso la prima elezione, poi ho vinto la seconda e così sono entrato nel giugno del 1848, quando avevo 38 anni, e sono entrato in Parlamento in quel momento. Ecco, lei è entrato in Parlamento e cosa è entrato? Nella mia carriera politica voglio fare l'Italia unita, era quella la sua idea? No, io non pensavo che fosse possibile fare l'Italia unita. Al massimo si poteva pensare di fare un regno dell'Alta Italia con Piemonte, Lombardia e Liguria e Val d'Aosta, cioè il regno di Sardegna come era allora, con la Sardegna, il Piemonte, la Liguria e la Val d'Aosta, e la Lombardia al massimo. Questo era quello che si poteva credere come possibile. Poi certo sarebbe stato bello, e io ho sempre scritto la parola Italia nelle mie lettere, anche nelle mie lettere da giovane, come se l'Italia fosse un concetto unitario, ma non era credibile di poter fare l'unità d'Italia come poi è accaduto. Nessuno poteva immaginare questo, era impossibile pensarlo. Non era realistico, poteva essere un'utopia, ma non era realistico. Ecco, lei era un uomo ormai affermato, era ricco, era imprenditore, era agricoltore, aveva girato l'Europa. Ma perché le venne in mente l'idea di dedicarsi alla politica in un piccolo regno come il Regno di Savoia allora? Ma io mi sono sempre dedicato alla politica, anche quando facevo queste cose che lei ha detto. La mia passione principale, il mio pensiero principale è sempre stato politico. Non facevo politica perché non volevo avere niente a che fare con Carlo Alberto e con il regime assolutista, il regime del re che comandava su tutto ed era di diritto divino, un regime che io non amavo e anzi addirittura mi ripugnava. E una volta ho anche scritto a una mia amica che avevo un senso di ripugnanza per il regime di Carlo Alberto, e quindi pur occupandomi sempre di politica, parlando sempre di politica, scrivendo di politica e di economia, però non volevo avere a che fare col mondo politico così come mi si presentava in quel momento. Ho fatto politica quando è stato possibile fare politica nel modo che io volevo, e cioè col Parlamento, con le leggi, con le elezioni, con le istituzioni democratiche. Insomma, ero liberale. Un liberale. E il suo re, il re per il quale poi le lavorò, Vittorio Emanuele II, il figlio di Carlo Alberto, non ebbe un rapporto facile con lui, proprio su questo punto, su questo aspetto. Difficilissimo. La prima volta che gli proposero di farmi ministro, che il presidente del Consiglio era Massimo D'Azeglio, la risposta di Vittorio Emanuele II fu: non mi si potrebbe fare un nome più simpatico? E quindi io non ero simpatico al re, e il re Vittorio Emanuele II ha cercato sempre di mettermi in difficoltà e, come dite voi ai nostri in questi tempi, di farmi fuori. Però devo riconoscere che il re, nonostante questa antipatia verso di me, poi invece mi ha tenuto vicino a sé, e quindi voglio ricordare agli italiani di oggi che tre persone che si detestavano tra di loro cordialmente, come me, Vittorio Emanuele II e Garibaldi, alla fine però hanno avuto un tale alto senso politico e, voglio dire, anche un amore per la patria da cooperare di fatto alla realizzazione di questa opera che è l'Unità d'Italia. E Mazzini? Ma Mazzini, poveretto Mazzini, è stato soprattutto un grande propagandista e non più di questo. Io non l'ho mai conosciuto Mazzini personalmente, lo conosco soltanto per le cose che gli sequestravamo, gli scritti che finivano in mano alla polizia, e quindi conoscevamo i suoi scritti, gli articoli che scriveva sulla stampa inglese, ma io non penso che Mazzini abbia veramente cooperato all'Unità d'Italia come ho fatto io, come ha fatto Garibaldi e come ha fatto Vittorio Emanuele II. Mazzini ha tenuto aperto il problema, questo è l'unico merito che sono disposto a riconoscergli, ma per il resto era un utopista, sognatore, che non avrebbe portato da nessuna parte. Senta, una domanda d'obbligo: è soddisfatto del risultato? Ma se devo guardare ad oggi, vedo tante cose che mi sembrano assurde, mi sembrano assolutamente insostenibili. La nostra forma costituzionale andrebbe cambiata sicuramente, andrebbe adottato un testo, una carta più agile, più adatta ai tempi moderni. L'intervento dello Stato negli affari del Paese è troppo preponderante, e lo Stato, non è vero che io ho sostenuto che lo Stato non deve mai intervenire, non sono un liberista sciocco, ci sono cose che lo Stato deve fare, ma oggi lo Stato ha invaso praticamente tutto. Noi viviamo in una repubblica che ha una forte connotazione socialista, ancora oggi, di fatto, qualunque cosa poi si dica nei discorsi o si scriva negli articoli. E lei irrita il fatto che questo centocinquantenario, nonché centocinquantenario della sua morte, cada nell'anno in cui l'Italia si dà o dice di darsi un assetto federale? Lei non era troppo federalista? Ma neanche troppo poco, però. È che quando Minghetti mi presentò il progetto di un'Italia divisa in 6 macroregioni, io non ero contrario a questo, però i tempi non erano ancora maturi per una struttura amministrativa di questo tipo, e quindi lasciai che il progetto venisse bocciato dal Parlamento, venisse ostacolato non c'era la sensibilità sufficiente per fare questo. Oggi una struttura federalista mi trova consenziente, sono d'accordo. Ho il dubbio che una struttura federalista imperniata sulle regioni sia contraddittoria con la storia d'Italia. Io sarei per un federalismo ancora più spinto allora. Un federalismo che mettesse in rapporto diretto le città, che sono i veri atomi che danno vita al paese, con lo Stato centrale. E in ogni caso non c'è federalismo senza un centro forte. Il federalismo che non ha un centro forte non è un federalismo. Insomma, signor Conte, deve fare un'altra passeggiata da queste parti, ho l'impressione. Sì, volentieri, quando vuole. L'aspettiamo. Bene. Grazie al conte di Cavour. Buona domenica. A proposito del conte di Cavour, un interessante parallelo è quello che offre Gian Enrico Rusconi nel libro Cavour e Bismarck, due leader tra liberalismo e cesarismo, pubblicato dal Mulino, 212 pagine, 15 euro. Bismarck fu il costruttore in parallelo a quello italiano dello Stato nazionale tedesco, che fu molto influenzato dal modello cavourriano, ma gli esiti saranno completamente diversi. Bismarck infatti non sarà certo un liberale e prenderà anzi le distanze da questo filone. Dirà in una sessione parlamentare nel 1860 che le grandi questioni del nostro tempo si decidono non con discorsi e risoluzioni di maggioranza, ma con il ferro e il sangue. Tutt'altro profilo, naturalmente, fu quello di Cavour, che non tradì mai, spiega in questo libro Rusconi, la sua schietta visione liberale. Lo spiega lui stesso Cavour, in questa lettera del 2 ottobre 1860, citato come una lezione di liberalismo nel libro di Rusconi. Io reputo che non sarà l'ultimo titolo di gloria per l'Italia di avere saputo costituirsi a nazione, sacrificare la libertà all'indipendenza, senza passare per le mani dittatoriali di un Cromwell, ma svincolandosi dall'assolutismo monarchico, senza cadere nel dispotismo rivoluzionario. Ora non va altro modo di raggiungere questo scopo che di attingere nel concorso del Parlamento la sola forza morale capace di vincere le sette e di conservarci la simpatia dell'Europa liberale, ritornare ai comitati di salute pubblica o, ciò che torna lo stesso, alle dittature rivoluzionarie d'uno o di più. Sarebbe uccidere sul nascere la libertà legale che vogliamo inseparabile compagna della indipendenza della nazione. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo ancora di Unità d'Italia. Vi propongo adesso un libro interessante a modo suo provocatorio per accostarci a questo tema, quello curato dallo storico Alberto Mario Banti. Si intitola Nel nome dell'Italia, il risorgimento nelle testimonianze, nei documenti e nelle immagini, ed è pubblicato dalla Terza, 424 pagine, 24 euro. Il libro è a modo suo militante perché trasmette una visione dell'unità come frutto dello scontro tra visioni diverse, sostanzialmente differenti, tra i democratici e i conservatori. Vuole contestare la Lega, il movimento politico, proprio in quanto ne fa l'erede imprevedibile del nazionalismo risorgimentale, e anche da ridire sul ciampismo, inteso come quello sforzo che fece il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi per far rinascere l'attenzione, l'amore, la passione per il risorgimento e per l'unità, con uno sforzo che secondo l'autore addirittura potrebbe richiamare qualche tono del nazionalismo fascista. Il libro non contesta il Risorgimento, che giudica comunque un movimento ampio, ricco, complesso, contraddittorio e ancora oggi straordinariamente affascinante, degno di essere attentamente studiato piuttosto che acriticamente giudicato, enfaticamente esaltato o liquidato senza appello. E quindi ci permette di costruirci un giudizio personale sul Risorgimento e ci invita a raggiungere questo obiettivo costruendoci un'opinione grazie all'ascolto dei protagonisti. Naturalmente troviamo qui una scelta di testi che è pur sempre fatalmente arbitraria, ma qui le sollecitazioni sono numerose, troviamo delle testimonianze anche insolite, non solo infatti atti ufficiali e testi noti, ma anche corrispondenze, testi di figure meno famose, tra le quali molte donne, e anche tante immagini che ci aiuteranno a farci appunto una personale idea del Risorgimento. A proposito di immagini, vi segnalo il libro di Marco Pizzo, che è il direttore del Museo Centrale del Risorgimento di Roma, Lo Stivale di Garibaldi, Risorgimento in fotografie, pubblicato da Mondadori, 182 pagine, 35 euro. Il Risorgimento è quasi contemporaneo ai primi passi della fotografia, di cui abbiamo qui le prime testimonianze. In alcune rarissime immagini di quegli anni non solo troviamo i protagonisti dell'unità, ma anche le rovine causate dalle vicende belliche che caratterizzano quegli anni. Per esempio troviamo le vicende che interessarono Roma del 1849 fino alla presa di Porta Pia, e troviamo le fotografie tratte dagli album, le immagini scattate per contribuire anche a costruire finalmente un'identità nazionale dopo che il processo di unità si era concluso. Un classico del filone critico sul Risorgimento sono gli scritti di Antonio Gramsci su questo tema. Questa edizione si intitola Il Risorgimento e l'Unità d'Italia, pubblicato da Donzelli, 206 pagine, 9,50 euro, e raccoglie scritti tratti dal Quaderno dal carcere più alcuni altri, fra cui degli articoli anche inediti, in uno dei quali tra l'altro emerge il giudizio molto positivo di Gramsci su Cavour, che mette a confronto, per Gramsci molto favorevole, con Giolitti, facendo risaltare lo spirito pratico e il culto dei principi del Conte rispetto appunto a Giolitti. Sul risultato del Risorgimento dà invece un giudizio complessivamente positivo Domenico Fisichella, docente universitario, politico di rango, che ha scritto Il miracolo del Risorgimento, la formazione dell'Italia unita, è pubblicato da Carocci, 214 pagine, 15 euro. Sulle orme di croce Fisichella ricorda che l'Italia dal 1860 al 1922 è stata uno dei paesi più democratici del mondo e che il suo svolgimento fu una non interrotta e spesso accelerata ascesa nella democrazia liberale, come ogni verace democrazia. E ricorda Fisichella il parere di un altro storico, Girolamo Arnaldi, per il quale i primi 45 anni dell'Italia finalmente unita furono in complesso anni di progresso civile e di sviluppo economico. Fisichella spiega allora le radici della scarsa presa che soprattutto nel secondo dopoguerra hanno avuto il Risorgimento e il processo di unificazione nazionale, una scarsa presa dovuta soprattutto, secondo l'autore, a una storica e pervicace tendenza al particolarismo, che appunto rende il Risorgimento un miracolo, in quanto, sempre secondo Fisichella, leggo dal suo libro, la formulazione di una nuova inusitata tradizione, quella dell'unità della nazione, è una tradizione che ha qualcosa appunto di miracoloso per la sua capacità di fare ascendere un popolo unito culturalmente e socialmente, ma diviso politicamente e istituzionalmente, a dignità di nazione, accorciando le distanze che tanto lo hanno separato dalle altre nazioni. Una cronaca di nuovo tra i protagonisti meno noti del Risorgimento è quella di Antonio Caprarica. C'era una volta in Italia, in viaggio tra patrioti, briganti e principesse nei giorni dell'unità, è pubblicato da Spelling e Kupfer e Rai ieri, 256 pagine, 18,50 euro. Un libro brillante, scritto con lo stile di chi fa cronaca. In questo caso il giornalista ci racconta i lavori del primo Parlamento nazionale che si era aperto a Torino il 18 febbraio del 1861 e da quel momento si snoda una serie di tratti di episodi che ci fanno rivivere la fase cruciale dell'unificazione con uno stile accattivante e godibile. Una figura unica e affascinante di quegli anni è una donna, una patrizia milanese, Cristina Trivulzio di Belgioioso, la prima donna d'Italia, come recita questo libro curato da Maria Chiara Fugazza e Caroline Röhrig e pubblicato da Franco Angeli, 254 pagine, 30 euro. Da questo libro emerge il ritratto completo di una donna dalle molte curiosità e dai grandi impegni anche di carattere sociale e politico. La Trivulzio fu particolarmente attiva nel 1848 in occasione delle Cinque Giornate e in questo libro vengono riprodotte alcune sue pagine molto coraggiose che mettono in luce una posizione particolarmente articolata e significativa su quella pagina della storia di Milano e del Risorgimento nazionale. E a questo punto il confettino. Continuiamo con una donna, Anita, la donna che insegnò a Garibaldi ad andare a cavallo. Questo è il titolo del libro di Antonio Valerio, è pubblicato da Gallucci, tradotto da Elena Battista, 330 pagine, 16,50 euro. È una biografia romanzata ma accurata della più celebre eroina del Risorgimento, che, come ricorda però l'autore, era brasiliana. Segnalo poi il 1861, un'avventura italiana, il libro di Annalisa Strada e Gianluigi Spina, illustrato da Luca Salvagno, pubblicato dalle Paoline, 230 pagine. Pagine 12 euro, che è ambientato all'inizio ancora in ambiente garibaldino e poi si svolge negli anni successivi fino appunto al raggiungimento dell'unità. Un classico della letteratura risorgimentale per i ragazzi è un libro del 1904 scritto da Giuseppe Cesare Abba, che era stato lui stesso garibaldino, e scrisse questo libro, Storia dei Mille narrata ai giovinetti, ce lo ripropone Lemuri, 230 pagine, 9 euro. E con questo ringrazio Margherita Aina e Claudio Carusi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona settimana, buona festa dell'unità e appuntamento domenica prossima.